ad alta voce. Elia Shilton legge Anton Chekhov. La scommessa. Era una cupa nottata d'autunno. Il vecchio banchiere passeggiava innanzi e indietro nel suo studio e s'andava rievocando come 15 anni prima, d'autunno, aveva dato un ricevimento. Al ricevimento erano intervenute molte persone d'ingegno e si erano intrecciati interessanti discorsi. Fra l'altro si era parlato della pena di morte. Gli ospiti, fra cui erano numerosi gli uomini di studio e i giornalisti, erano in maggioranza contrari alla pena di morte. Giudicavano questa forma di punizione antiquata, disadatta a stati cristiani e immorale. A parere di alcuni, la pena di morte si sarebbe dovuta sostituire dovunque con la reclusione a vita. «Io non sono d'accordo con voi», aveva ribattuto ai suoi ospiti il banchiere. «Non ho mai sperimentato né la pena di morte né la reclusione a vita, ma se è possibile giudicarne a priori, secondo me la pena di morte è più morale e più umana della reclusione. La pena di morte uccide d'un colpo, mentre la reclusione a vita uccide lentamente. E qual è il boia più umano? Quello che vi ammazza in pochi istanti o quello che vi sottrae la vita nel corso di lunghi anni? L'una e l'altra cosa sono parimente immorali», era intervenuto uno degli ospiti, «giacché hanno entrambe lo stesso identico fine, quello di toglier la vita. Lo Stato non è il Dio. Esso non ha il diritto di togliere ciò che non è in grado di rendere, se volesse». Si trovava fra gli ospiti un giurista, giovane sui 25 anni. Quando gli chiesero di che opinione fosse, egli rispose: «Tanto la pena di morte quanto la reclusione a vita sono parimente immorali. Ma se mi proponessero di scegliere fra la morte e la reclusione, io tutto sommato sceglierei quest'ultima. Vivere come che sia è meglio che non vivere affatto». Ne era nata una accanita discussione. Il banchiere, che allora era più giovane e più nervoso, tutto a un tratto aveva perso la calma, aveva picchiato col pugno sul tavolo e aveva gridato rivolto al giovane giurista: «Non è vero! Son pronto a scommettere 2 milioni che voi non sareste capaci di rimanere in una casa matta neppure per lo spazio di 5 anni. «Se parlate seriamente», gli aveva risposto il giurista, «ebbene, io son pronto a scommettere che ci rimarrò dentro non 5, ma 15 anni. 15 accetto!» aveva gridato il banchiere. «Signori, la mia posta è di 2 milioni. «D'accordo, la vostra posta sono 2 milioni e la mia è tutta la mia libertà», aveva esclamato il giurista. E la stravagante, dissennata scommessa era stata effettuata. Il banchiere, che a quei tempi non sapeva neppure il numero dei suoi milioni, viziato e leggero, andava in estasi per quella scommessa. Durante la cena s'era preso gioco del giurista e gli diceva: «Vogliate ricredervi, giovanotto mio, intanto che non è troppo tardi? Per me 2 milioni significano una sciocchezza, mentre voi correrete il rischio di perdere 3 o 4 dei migliori anni della vostra vita. Dico 3 o 4 perché già non durerete a rimanere chiuso più a lungo. Né dovete dimenticare, sciagurato, che quando sia volontaria la reclusione è immensamente più gravosa di quando c'è imposta. Il pensiero che ad ogni istante voi sareste in diritto di uscire a libertà vi avvelenerà dentro quella casa matta l'esistenza alle radici. Io sento pietà di voi». Ed ecco che adesso il banchiere, facendo innanzi e indietro per la stanza, si risovveniva di tutto questo e domandava a se stesso: A che scopo questa scommessa? Che si può ricavare dal fatto che il giurista ha perduto 15 anni di vita e che io butto via 2 milioni? Può mai questo dimostrare agli uomini che la pena di morte sia peggiore o migliore della reclusione a vita? Mai e poi mai. Non è che un'assurdità e un'insensatezza. Da parte mia è stato il capriccio di un individuo strasazio e da parte del giurista semplicemente una cupidigia di danaro. Poi continuò a rievocarsi ciò che era avvenuto dopo quella sera. Si era stabilito che il giurista avrebbe scontato la sua reclusione sotto la più severa vigilanza in uno dei padiglioni che sorgevano nel giardino del banchiere. Avevano convenuto che per tutta la durata dei 15 anni egli sarebbe stato privato del diritto di varcare la soglia del padiglione, di vedere altra gente, di udir voci umane, di ricevere lettere o giornali. Gli si permetteva di tenere uno strumento musicale, di leggere libri, di scrivere lettere, di bere vino e di fumar tabacco. Ma col mondo esterno, secondo i patti, non poteva avere altri rapporti che quelli silenziosi attraverso una finestrina costruita appunto a tal uopo. Tutto quello di cui avesse bisogno, libri, spartiti, vino e via dicendo, poteva ottenerlo dietro ordinazione scritta nella quantità che più gli andasse a grado, ma unicamente attraverso quella finestra. L'accordo contemplava tutti i particolari e le minuzie atti a rendere la segregazione totale e perfetta e faceva obbligo al giurista di osservarla per la durata precisa di anni 15, dalle ore 12 del 14 novembre 1870 alle ore 12 del 14 novembre 1885. Il minimo tentativo da parte del giurista di rompere le condizioni pattuite fosse anche 2 minuti prima dello scadere del termine avrebbe prosciolto il banchiere dall'obbligo di sborsargli i 2 milioni. Nel primo anno di reclusione, il giurista, per quanto si era potuto giudicare dai suoi brevi biglietti, aveva violentemente sofferto della solitudine e della noia. Là dal suo padiglione, giorno e notte incessantemente, giungevano le note del pianoforte. Rifiutava sia il vino sia il tabacco. Il vino, scriveva, eccita i desideri, e i desideri sono i più grandi nemici del prigioniero. E poi non c'è nulla di più tedioso che bere del buon vino e non aver la compagnia di nessuno. Il tabacco, d'altra parte, gli viziava l'aria della stanza. In questo primo anno la maggior parte dei libri inviati al giurista era stata d'indole leggera, romanzi dai complicati intrighi amorosi, racconti polizieschi e fantastici, commedie, eccetera, eccetera. Nel secondo anno la musica s'era taciuta nel padiglione, e il giurista faceva richiesta nei suoi biglietti solo d'autori classici. Il quinto anno era tornata a risuonare la musica e il prigioniero aveva voluto del vino. Coloro che lo vigilavano dalla finestrella riferivano che per tutta quell'annata non aveva fatto altro che mangiare, bere e star coricato sul letto e spesso sbadigliare e rabbiosamente discorrere con se stesso. Libri non ne aveva letti. A volte, la notte, si sedeva a scrivere e scriveva a lungo e poi al far del giorno stracciava in 1000 pezzi tutto quanto aveva scritto. Lo avevano sentito a più riprese piangere. Nella seconda metà del sest'anno, il prigioniero si era dato con gran diligenza allo studio delle lingue, della filosofia e della storia. Avidamente si era rivolto a queste scienze, tanto che il banchiere riusciva a stento a ordinare i libri che gli servivano. Nel corso di 4 anni, a sua richiesta, erano stati acquistati circa 600 volumi. All'epoca di tale furore, il banchiere aveva fra l'altro ricevuto dal suo prigioniero la seguente lettera. «Mio carissimo carceriere, vi scrivo queste righe in 6 diverse lingue, mostratele a persone esperte che esse le leggano. Se non ci troveranno neanche un errore, allora ve ne prego, fate sparare in giardino un colpo di fucile. Questo colpo mi farà intendere che i miei sforzi non sono andati a vuoto. I geni dei vari secoli e dei vari paesi parlano in lingue diverse, ma arde in tutti una medesima fiamma. Ah, se sapeste quale felicità sovrumana prova ora l'anima mia, da che sono in grado di intenderli. E il desiderio del prigioniero era stato esaudito. Il banchiere aveva ordinato che sparassero in giardino due colpi. Scaduto il decimo anno, il giurista era rimasto immobile a tavolino a leggere sempre e soltanto il Vangelo. Al banchiere era parsa una cosa strana che un uomo venuto a capo in 4 anni di 600 ardui volumi sprecasse quasi un'annata nella lettura d'un solo libro, agevole e tutt'altro che ponderoso. Al posto del Vangelo seguirono quindi la storia delle religioni e la teologia. Gli ultimi 2 anni di segregazione, il prigioniero lesse una immensa quantità di roba, senza discriminazioni di sorta. Ora si occupava di scienze naturali, ora chiedeva Byron o Shakespeare. Giungevano da parte sua certi biglietti in cui pregava che gli si mandasse nello stesso tempo e della chimica e un manuale di medicina e non so quale altro trattato di filosofia o di teologia. Questo suo modo di leggere dava l'impressione che egli si tenesse a galla in un oceano tra gli sfasciumi d'un bastimento e, in un desiderio di salvarsi la vita, avidamente s'aggrappasse ora a uno di quegli avanzi, ora a un altro. Il vecchio banchiere s'andava rievocando tutto questo e pensava: domani alle 12 egli ottiene la libertà. Secondo il nostro compromesso io sarò costretto a sborsargli 2 milioni. Se li dovrò sborsare, allora tutto è perduto. Io mi trovo definitivamente in rovina. 15 anni or sono non sapeva neppure lui quanti milioni avesse. Ora invece aveva paura di domandare a se stesso che cosa avesse di più, danari o debiti. L'azzardoso gioco di borsa, le arrischiate speculazioni, l'avventatezza da cui non s'era potuto liberare neanche in vecchiaia, man mano avevan fatto declinare i suoi affari, con la conseguenza che l'impavido, sicuro, orgoglioso riccone era venuto a mutarsi in un banchiere di mezza taglia, trepidante ad ogni innalzamento o abbassamento dei titoli. Maledetta scommessa, borbottava il vecchio e dalla disperazione s'afferrava la testa fra le mani. Perché questo uomo non è morto? Gli restano ancora 40 anni da vivere. Egli mi toglierà tutto quanto m'avanza, prenderà moglie, si goderà la vita, giocherà in borsa, mentre io, come un mendicante, starò a guardarlo pieno di invidia e tutti i giorni mi sentirò dire da lui sempre la stessa identica frase: io debbo a voi la felicità della mia vita, permettetemi dunque d'aiutarvi. No. Questo poi era troppo. L'unico mezzo di salvarsi dalla bancarotta e dall'obbrobrio è la morte di quest'uomo. Scoccarono le 3 dopo mezzanotte. Il banchiere tese l'orecchio. In casa tutti dormivano e si udiva soltanto attraverso le finestre il fruscio degli alberi intirizziti. Attento a non fare nessun rumore, egli cavò fuori dallo stipo incombustibile la chiave di quella porta che non s'era più aperta per la durata di 15 anni, indossò il paltò e uscì all'aperto. Nel giardino era buio e freddo, pioveva, tagliente e umido il vento, ululando, spazzava il giardino da un capo all'altro e non dava requie alle piante. Il banchiere aguzzò lo sguardo, ma non poté distinguere né il terreno, né il bianco delle statue, né i padiglioni, né gli alberi. Avvicinandosi al luogo dove sorgeva il padiglione, 2 volte diede voce al guardiano. Non ci fu risposta. Evidentemente il guardiano s'era posto al riparo del maltempo e s'era addormentato chissà dove, forse in cucina o nella serra. Se m'assiste il coraggio di mettere a effetto la mia risoluzione, si disse il vecchio, i sospetti cadranno anzitutto sopra il guardiano. Tastoni, così al buio, trovò gli scalini e la porta ed entrò nell'anticamera del padiglione. Quindi, sempre al tasto, si inoltrò per il piccolo corridoio e accese un fiammifero. Non c'era qui anima viva. C'era un'armatura di letto, chissà di chi, senza materasso né coperte, e foscheggiava in un angolo una stufa di ghisa. I sigilli apposti all'uscio che metteva nella stanza del recluso erano intatti. Quando il fiammifero venne a spegnersi, il vecchio, tremante dall'emozione, allungò un'occhiata per l'angusta finestrina. Nella stanza del recluso, fioca, ardeva una candela. Egli stava là, seduto alla tavola. Visibili erano soltanto il suo dorso, i capelli e le mani. Sulla tavola, su due poltrone e su un tappeto d'appresso alla tavola, giacevano aperti libri e libri. Trascorsero 5 minuti e il recluso non fece mai un movimento. 15 anni di segregazione gli avevano insegnato a rimanere immobile. Il banchiere diede col dito un colpetto alla finestra, ma il recluso non rispose nemmeno a quel rumore con un movimento qualsiasi. Allora il banchiere, cauto, spezzò all'uscio i sigilli e introdusse la chiave nel buco della serratura. Arrugginita com'era, la serratura diede un suono rauco e l'uscio cigolò. S'aspettava il banchiere che subito risuonasse un grido di stupore e un passo concitato, ma passarono 3 minuti e di là dall'uscio regnava sempre il silenzio di prima. Finalmente decise d'entrare nella stanza. Alla tavola, immobile, sedeva un uomo che non aveva nulla di simile al comune dei mortali. Era uno scheletro, questo, ricoperto di pelle, con certi lunghi boccoli femminei e una foltissima barba. Il colore del suo viso era giallo con una sfumatura terrea. Le gote incavate, la schiena lunga e stretta, e la mano con cui sosteneva la testa capelluta, così sottile e scarna che dava un ribrezzo a guardarla. Tra i suoi capelli già traspariva l'argento della brizzolatura e all'estenuazione da vecchio che era su quel viso. Nessuno avrebbe creduto che costui avesse solo 40 anni. Egli dormiva. Dinanzi alla testa di lui, così china, stava sul tavolo un foglio di carta sul quale era scritto qualcosa in una minuta calligrafia. «Povero uomo, fa pietà», pensò tra sé il banchiere. «Dorme e probabilmente vede in sogno i milioni. E pensare invece che basterebbe che io pigliassi questo semicadavere e lo gettassi sul letto, gli premissi appena appena il cuscino sulla bocca, e la più diligente perizia non riuscirebbe a rinvenire nessun indizio di morte violenta. Tuttavia, leggiamo anzitutto che cosa ha scritto qui». Il banchiere prese su dal tavolo il foglio e lesse quanto segue. «Domani, allo scoccar del mezzogiorno, io riavrò la libertà e il diritto di convivere col genere umano. Ma prima che io lasci questa stanza e rivegga il sole, reputo indispensabile rivolgervi qualche parola. In schietta coscienza e di fronte a Dio che mi vede, vi dichiaro che io disprezzo e la libertà e la vita e la salute e tutto quello che nei vostri libri viene compreso sotto il termine di beni di questo mondo. Per lo spazio di 15 anni io ho con la più grande attenzione studiato la vita su questa terra. Non ho, è vero, veduto né la terra né gli uomini, ma nei vostri libri ho bevuto gli aromatici vini, ho cantato le dolci canzoni, mi sono lanciato nei boschi all'inseguimento dei cervi e dei cinghiali selvaggi, ho amato le donne. Beltà eteree come nubi create dalla magia dei vostri geniali poeti sono venute a visitarmi la notte e m'han sussurrato miracolosi racconti di cui la mia anima diveniva ebra. Nei vostri libri io sono asceso fin sulle vette dell'Elbrus e del Mont Blanc, e di lassù ho contemplato al mattino il sorgere del sole, e alla sera l'ho veduto inondare il cielo, l'oceano e le vette montane di porpora e d'oro. Ho veduto di lassù al di sopra del mio capo, fra le nubi squarciate, sfolgorare i lampi. Ho veduto il verde dei boschi e dei campi, i fiumi, i laghi, le città. Ho udito il canto delle sirene e lo zufolio delle fistole pastorali. Ho palpato con mano le ali di bellissimi diavoli che a volo accorrevano da me a conversar di Dio. Nei vostri libri io mi sono precipitato dentro abissi senza fondo, ho compiuto miracoli, ho ucciso, ho incendiato città, ho predicato nuove religioni, ho soggiogato con l'armi immensi imperi. I vostri libri mi hanno dato la sapienza, tutto ciò che attraverso i secoli è stato creato dall'infaticabile pensiero umano è venuto a condensarsi nel mio cervello in un nocciolo di modeste proporzioni. So benissimo io d'essere più intelligente di tutti voi altri. E io disprezzo i vostri libri, disprezzo tutti i beni di questo mondo e disprezzo la sapienza. Tutto è meschino, effimero, inconsistente e ingannevole come un miraggio. Siate pur orgogliosi voi dotti e uomini superiori, ma la morte vi scancellerà dalla faccia della terra alla stessa stregua dei topi che stan sotto il piancito. E la posterità, la storia, l'immortalità dei vostri geni congeleranno o avvamperanno in una col globo terrestre. Voi avete perduto il senno e state battendo una strada sbagliata. La menzogna voi la scambiate per verità e la deformità per bellezza. Vi stupireste se in seguito a date circostanze i meli e gli aranci in luogo dei loro frutti producessero d'improvviso ranocchie e lucertole, o se le rose incominciassero a emanare odor di cavallo sudato. Ebbene, allo stesso modo mi stupisco io di voi, che avete tradito il cielo per la terra. Io non voglio comprendervi, e per dimostrarvi coi fatti il disprezzo che sento per ciò di cui voi vivete, io rifiuto i 2 milioni di cui un tempo ho fantasticato come d'un paradiso e che presentemente disprezzo. Al fine di perdere ogni diritto su di essi, uscirò di qui 5 ore innanzi lo scader del termine pattuito e in tal modo infrangerò l'accordo. Quando ebbe letto così, il banchiere depose il foglio sul tavolo, baciò lo strano uomo sul capo, ruppe in lacrime e riuscì dal padiglione. Non mai prima di questo momento, neppure dopo le più forti perdite in borsa, egli aveva provato un disprezzo così acuto per se stesso. Appena fu in casa, si buttò lungo nel letto, ma l'emozione e le lacrime, per un pezzo, non gli lasciarono prender sonno. La mattina seguente accorsero pallidi i guardiani e gli comunicarono d'aver visto quell'uomo che viveva nel padiglione sbucar fuori dalla finestra in giardino, dirigersi al cancello e di là dileguare. Insieme con l'agente di servizio, il banchiere immediatamente si portò al padiglione dove poté accertarsi della fuga del suo prigioniero. Per non destar commenti superflui, tolse dal tavolo il foglio della ripulsa e, tornato nelle sue stanze, lo rinchiuse nello stipo incombustibile. Elia Shilton ha letto Anton Chekhov, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli,